America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, domani l'America al voto. Oggi, lunedì 5 novembre, ultima giornata di campagna elettorale. Una corsa all'ultimo voto, o forse non all'ultimo voto, perché nel frattempo Barack Obama sembra essersi portato in vantaggio. Don't boo, vote! Vote, la mobilitazione al voto. Barack Obama, i democratici soprattutto hanno cercato di mobilitare il voto, ci sono riusciti, ma soprattutto il presidente americano è riuscito a impostare una campagna elettorale che nell'ultima settimana ha cambiato quasi improvvisamente le carte in tavola. Innanzitutto ha impostato già da un paio di settimane fa una campagna molto più aggressiva, arrivando al fine settimana scorso era in vantaggio da un punto di vista dei sondaggi su Mitt Romney in alcuni stati, aveva recuperato. Dopodiché c'è stato l'uragano Sandy, uragano Sandy che fra l'altro ha costretto ieri a New York a cancellare la maratona, un altro evento che era totalmente inatteso per la città. È un momento, devo dire, molto particolare, perché si va a queste elezioni in un'atmosfera in cui non mi ricordo di aver vissuto altre elezioni per la presidenza americana in cui 60 milioni di americani, perché è questo il bacino di persone che è stato colpito l'uragano Sandy, si trova in difficoltà, ancora senza energia elettrica, senza benzina, ci sono delle code interminabili, non ci sono provviste alimentari. Ecco, è un momento davvero particolare, ma i candidati sono comunque all'attacco, al loro ultimo leg. Ohio, Wisconsin, New Hampshire, Colorado, Pennsylvania, si parte con un aereo, si arriva in un aeroporto, in un piccolo paesino, si sta mezz'ora, si riparte, si va in un altro stato. Questo era il percorso di Mitt Romney, oggi sarà in New Hampshire e Colorado, Barack Obama, Wisconsin, Iowa, Virginia, Florida, New Hampshire e poi Pennsylvania. Ho con me ai microfoni di America 24 Paolo Valentino, inviato del Corriere della Sera. Abbiamo seguito con lui alcuni dei momenti più importanti di queste elezioni. Buongiorno Paolo. Buongiorno Mario. Allora, siamo agli ultimi sgoccioli ormai e c'è questa corsa frenetica. Ormai non si parla più di tematiche, non si parla più di issues, c'è soltanto una rincorsa di comizio in comizio per cercare di apparire in televisione, per cercare di mobilitare il voto, per cercare di conquistare quell'ultimo seggio che può determinare le elezioni. Una domanda, Paolo. Mitt Romney è andato in Pennsylvania. La Pennsylvania è, tutti davano per scontato che fosse di Barack Obama, sono 20 voti elettorali. Perché secondo te ci è andato? Ha qualche speranza oppure sta cercando di vincere il voto popolare? Io credo che ci sia andato soprattutto per confondere le acque e comunque nella speranza di vincere il voto popolare. Ecco, c'è comunque una situazione, come dire, un po' di tensione. Ho parlato con dei repubblicani, dei grandi finanziatori repubblicani molto vicini alla campagna di Romney, loro continuano a sperare che alla fine Romney ce la possa fare. Secondo te sarà un'elezione che si deciderà piuttosto in fretta o saremo sul filo di lana? Io credo che si deciderà sul filo di lana, ma non avremo una situazione tipo l'elezione del 2000, quando si è andati avanti per giorni, quando in discussione era la Florida per un pugno di voti, ci fu il riconteggio. Cioè, io credo che Obama vincerà nel collegio elettorale con uno scarto sicuramente inferiore a quello del 2008 rispetto al rivale repubblicano, quindi diciamo con relativamente pochi voti di scarto, ma questo apparirà abbastanza chiaro. Ecco, in questo momento gli ultimissimi conteggi negli spostamenti, negli stati chiave, quelli gli swing state, quelli incerti, l'Ohio, la Florida, la Virginia, ecco, danno Obama in vantaggio a 253 seggi elettorali. Ricordiamo la differenza, cioè c'è il voto popolare, quindi tutta l'America, l'andamento del voto di tutti gli americani dalla California a New York, e poi c'è il voto dei singoli stati. Ecco, la vittoria in ciascuno stato consente di accumulare un certo margine di voti elettorali che poi assommati consentono, se si supera la soglia di 270 voti elettorali, di vincere la presidenza degli Stati Uniti. Ecco, per questo c'è questa corsa frenetica in questi stati incerti. L'Ohio, perché l'Ohio è così particolare? Intanto perché lo dice la statistica, nessun presidente repubblicano è stato mai eletto senza vincere l'Ohio. Secondo, perché nelle ultime 8 elezioni presidenziali, credo siano 8, chi ha vinto l'Ohio ha vinto la Casa Bianca. l'Ohio è un po' l'ombelico del paese, so goes Ohio, so goes the country, si dice, cioè come va l'Ohio così andrà il paese, e quindi è una lancetta importante dell'opinione pubblica nazionale. Ecco, l'Ohio, vorrei aggiungere Paolo, è uno stato che nella sua parte settentrionale rappresenta così un po' il Midwest, la parte agricola, la parte meridionale è industriale, il vecchio Rust Belt, nella parte occidentale è proiettato verso il Midwest, quindi ci sono una serie di tipologie americane diverse che riassumono quello che è il profilo degli Stati Uniti d'America. Tanto è vero che, e qui vi cito una storia che feci qualche anno fa, la Procter & Gamble, che è la più grande multinazionale al consumo degli Stati Uniti e che è nata in Ohio, è riuscita a farcela, perché quando cominciò a prendere piede la pubblicità, beh, in Ohio doveva fare una pubblicità che andava bene, che andasse bene per tutti, e si accorsero che questa pubblicità che andava bene per tutti in Ohio funzionava bene nei vari mercati americani. Quindi in questo senso l'Ohio come microcosmo è il laboratorio degli Stati Uniti. Ovviamente c'è da aggiungere che l'Ohio ha 18 voti elettorali, quindi un bel bottino, e che sono determinanti per qualunque candidato per raggiungere il numero magico di 270. Ecco, Wisconsin in teoria è un altro degli stati incerti, però sembra essere a favore di Barack Obama, uno stato molto operaio, se non che il Wisconsin quest'anno è stato al centro delle cronache perché il governatore Scott Walker, repubblicano doc, ha ingaggiato una battaglia violentissima contro i sindacati, è andato a un referendum popolare e ha vinto, ha sconfitto i sindacati, è diventato un simbolo dei repubblicani in tutta l'America. Dopodiché Mitt Romney, candidato repubblicano alle elezioni per la Casa Bianca, sceglie come suo compagno di corsa Paul Ryan, anche lui del Wisconsin. Ma ha sbagliato forse Mitt Romney a scegliere come compagno di corsa Paul Ryan del Wisconsin, che tutto sommato non gli porta neanche il suo stato, ma insomma un fallimento, o no? Romney ha scelto Paul Ryan per altre ragioni, perché con Paul Ryan si è coperto il fianco destro, perché Paul Ryan è uno dei beniamini del Tea Party, perché è un fiscal conservative, per tutte queste ragioni. Ovviamente la motivazione del Wisconsin era una motivazione addizionale, perché con Paul Ryan lui pensava di rovesciare la situazione elettorale. Il problema è che comunque il Wisconsin non è mai stato primario nelle intenzioni di Romney, che puntava soprattutto all'Ohio, quindi era una sorta di piano B. Nel momento in cui non ce la fa in Ohio, può puntare, può scommettere qualcosa in Wisconsin, ma questa parte del piano almeno finora apparentemente è saltata. L'atmosfera, devo dire, in queste ultime due settimane è cambiata, soprattutto nell'ultima settimana. Ci sono stati quattro elementi chiave, no? Secondo me c'è stato a un certo punto Barack Obama che è partito all'attacco subito dopo il terzo dibattito, quando è stato molto aggressivo nei confronti di Romney. Qualcuno lo criticava, ma non ha mollato, ha continuato ad attaccare. Dopodiché questo l'ha portato in avanti nei sondaggi, quindi gli ha funzionato. Poi abbiamo visto che è arrivato verso domenica, lunedì, in uscita da questa settimana di attacchi con l'uragano Sandy, a quel punto Obama presidenziale. E poi c'è stato Chris Christie, il governatore repubblicano del New Jersey, che sembrava essere il suo amico, è stata una rivoluzione Chris Christie, repubblicano doc, amico di Romney. E poi alla fine il dato sull'occupazione con 171.000 nuovi occupati, molto meglio delle previsioni. Ecco, questi quattro elementi hanno cambiato l'umore. Ora, naturalmente, tutto può ancora succedere, perché l'abbiamo detto prima, Paolo, questa sarà quasi sicuramente una corsa sul filo di lana, potremmo sempre avere alcune sorprese, ma visto che il posizionamento sembra essere leggermente in favore di Obama, secondo te sono stati questi gli elementi determinanti? Sicuramente, in una campagna dove le percezioni sono state decisive, io credo che questi quattro elementi abbiano creato un clima nuovo più favorevole a Obama. Ma di questi quattro elementi sicuramente il fattore decisivo è stato l'uragano Sandy, che ha consentito a Obama di profilarsi come un commander in chief, un comandante in capo autorevole, prestigioso, efficace, caratteristiche che forse nell'ultima parte della sua presidenza la gente non gli accreditava più. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, Ohio. Beh, ne abbiamo parlato ripetutamente durante quest'ultima fase della campagna elettorale. L'Ohio, lo stato incerto per definizione, dunque dedichiamo la canzone del giorno a questo stato che potrebbe decidere domani la Casa Bianca 2012, Crosby, Stills & Nash, Ohio. Tin soldiers and Nixon's coming, we'll finally on. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani, grande giornata elettorale americana. Goodbye and get going!